Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Più tiri in A4 e A23 per la CGA di Mestre, un segno che il triangolo industriale è ruotato a nord-est. Vicino o lontano accoglie Sally Hayden, premio Terzani, con il suo reportage sulla migrazione dall'Africa. 6 fucili mitragliatori e 2 revolver nell'auto di un 59enne campano fermato a Villesse dalla mobile di Gorizia. Presentato il progetto della viabilità intorno al nuovo ospedale di Pordenone, ciclabile, rotonde e semafori. Terza edizione di Diabete a ruota libera, una pedalata lunga 3 giorni, oggi la tappa a Pordenone. 12:31, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Partiamo con i numeri dell'economia. Il numero di mezzi pesanti medi che ogni giorno corre lungo l'autostrada Venezia-Trieste, 11.300 quelli calcolati, è doppio rispetto a quello che percorre la tratta Udine-Tarvisio. Ma rispetto al 2019, anno pre-pandemico, l'incremento in A23 è stato del più 10%, quasi doppio rispetto alla crescita in A4. A calcolarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha analizzato i dati AISCAT. Secondo l'associazione veneta, seppure empiricamente, i dati dei flussi di traffico commerciale confermano le statistiche economiche. Se Milano resta la capitale economica e finanziaria del paese, da qualche decennio il triangolo industriale è ruotato di 180 gradi e guarda stabilmente a nord-est. Gli altri due vertici non sono più, insomma, Torino e Genova, ma Venezia e Bologna con le aree circostanti. La CGA sottolinea come nell'anno in corso la crescita del PIL nazionale sarà trainata dalla Lombardia con un più 0,95%, seguita da Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Veneto. Il Friuli Venezia Giulia si dovrebbe collocare al nono posto con un più 0,67%. Tutte le regioni, escluse Umbria e Abruzzo, hanno recuperato gli effetti negativi provocati dalla caduta del PIL del 2020. Con Lombardia in testa, ci sono ancora una volta le regioni del nord-est insieme all'exploit della Puglia. Le previsioni di crescita riferite alle 107 province italiane vedranno Milano guidare la graduatoria nazionale, seguita da Pavia, Vicenza, Bologna e Modena. Pordenone con più 0,88% e Gorizia con più 0,84% sono attese al sesto e all'ottavo posto. Udine quest'anno dovrebbe aumentare il proprio valore aggiunto dello 0,46% e Trieste solo dello 0,09%, nonostante sia il capoluogo regionale, sia dai capoluoghi regionali la migliore performance post pandemia, con una crescita di inoltre 9 punti. Adesso a Udine, dove è iniziato il fine settimana conclusivo della rassegna dedicata ai temi dell'attualità vicino lontano. Molti gli appuntamenti e gli ospiti di questa giornata, che culminerà questa sera con la consegna del premio intitolato a Tiziano Terzani. È in corso la conferenza stampa di presentazione del libro È la quarta volta siamo annegati, sul sentiero della morte che porta al Mediterraneo, libro della 35enne giornalista irlandese Sally Hayden. Stasera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine le verrà consegnato il premio Terzani nella penultima giornata del Festival Vicino Lontano. Il libro inizia con un conteggio, quello del numero di persone affogate nel solo Mediterraneo centrale, stima per difetto oltre 22.000 in un decennio, dal 2014. Si chiude poi negli ultimi capitoli con un'analisi delle responsabilità europee per le politiche attuate ai confini del continente e in maniera vicaria dagli stati africani con fondi europei, politiche discriminatorie e contrarie al diritto internazionale secondo chi promuove cause contro la stessa Unione Europea. La storia è scritta dai vincitori, si legge. Le vittime che sopravvivono spesso non hanno la forza di prendere parola e riscrivere le narrazioni, oppure non hanno le giuste conoscenze per assicurarsi che la loro voce venga ascoltata. Questo è proprio quello che ha fatto Sally Hayden: viaggiare, visitare decine di paesi africani, conoscere e raccogliere testimonianze. Proprio come avrebbe fatto oggi Tiziano Terzani, scomparso 20 anni fa, alla cui memoria è dedicato il premio che questa sera Sally Hayden ritirerà. Sono onorata che ci sia questo legame tra Terzani e me, e penso che il giornalismo è difficile in questo periodo, nel panorama attuale in cui soprattutto mancano finanziamenti per scrivere questo tipo di storie, e soprattutto a volte l'opinione pubblica non sembra così interessata, ed è quindi era importante che io scrivessi questo libro, e l'ho scritto da freelance. È una storia quindi che ho coperto anche con il mio impegno, con i miei mezzi, perché la ritenevo così interessante e meritava quindi di essere scritta. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: la squadra mobile della questura di Gorizia ha arrestato a Villesse un 59enne campano e sequestrato numerose armi introdotte illegalmente in Italia. A fine aprile un equipaggio ha notato un'autovettura percorrere a forte velocità la rotonda di Sant'Andrea, imboccare il raccordo autostradale e uscire dopo pochissimi minuti dall'autostrada a Villesse per dirigersi verso un centro commerciale. Una volta raggiunto, il veicolo è stato controllato. Il conducente, che era notevolmente agitato, ha insospettito i poliziotti che hanno perquisito l'auto, trovando nell'abitacolo e nel portabagagli 6 fucili mitragliatori e 2 revolver con caricatori e numerose munizioni. L'uomo è stato portato in carcere a Gorizia, le armi sequestrate. Al seminario di Castellerio a Pagnacco, studiosi e teologi hanno analizzato gli effetti dell'ingresso dell'intelligenza artificiale nella vita di individui e comunità. Alla vigilia della 58esima giornata mondiale per le comunicazioni sociali, l'arcidiocesi di Udine, in particolare l'ufficio per la pastorale delle comunicazioni sociali, si interroga sull'intelligenza artificiale con un incontro al seminario di Castellerio a Pagnacco dal titolo Intelligenza artificiale e sapienza del cuore per una comunicazione pienamente umana. Ad aprire l'incontro un video di Monsignor Riccardo Lamba, arcivescovo di Udine, che mette al centro del dibattito l'uomo, la persona. Dobbiamo valutare la proporzione tra il fine che abbiamo noi, l'annuncio del Vangelo, l'essere vicino alle persone più fragili e più deboli attraverso la carità, e gli strumenti che abbiamo a disposizione. Un modo di porsi davanti alle nuove sfide che l'intelligenza artificiale pone sia dal punto di vista pratico che etico. Angelo Montanari, Università di Udine. Possiamo pensare come può essere utilizzata, come è già utilizzata per esempio in ambito medico. Noi riusciamo oggi a riconoscere l'insorgenza di malattie che anche il medico più esperto, guardando i dati a disposizione, non è in grado di fare, e lo stesso vale anche in ambito industriale. Chiaramente ci sono dei rischi, che però come sempre non sono tanto legati alla tecnologia in sé, ma sono legati al tipo di utilizzo che viene fatto. Di fronte agli sviluppi nel campo dell'innovazione si fa pressante la domanda legata alla responsabilità e alla necessità di governare gli strumenti tecnologici, ed è questa la nuova frontiera della discussione sull'intelligenza artificiale, frontiera su cui si è misurata, almeno a partire dagli ultimi decenni, anche la Chiesa Cattolica. Giovanni Tridente, docente alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Bisogna abituare le persone al pensiero critico, e quindi gli educatori hanno questo compito fondamentale per le nuove generazioni di instillare, diciamo così, la domanda rispetto all'uso positivo delle macchine, a come evitare i problemi, a come evitare i rischi, per farne evidentemente un uso consapevole che sia di beneficio alle loro vite, quindi macchine come alleate dell'uomo e non sostituti. Pagnacco, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La politica: Trieste, la libreria CNULP, incontro con i 5 Stelle sul reddito di base universale. Il reddito universale per tutti, per sopperire ai posti di lavoro che saranno persi con l'intelligenza artificiale, ma nell'immediato anche la promessa di lottare per estendere il reddito di cittadinanza anche nel resto d'Europa, e poi la pace. Punti del programma del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni europee. Il Movimento a Trieste ha presentato alcuni candidati assieme all'ex Presidente della Camera, Roberto Fico. Prendiamo in lista l'europarlamentare uscente Sabrina Pignedoli, che abbiamo intervistato. Quali sono i punti principali della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le elezioni europee? Prima di tutto la pace, l'abbiamo messa anche nel simbolo, poi le questioni ambientaliste, perché dobbiamo portare avanti il Green Deal, e poi un'Europa più sociale, quindi noi abbiamo il reddito di cittadinanza europeo nel nostro programma per chi perde il lavoro a causa dell'intelligenza artificiale. Un programma anche a lungo termine su questo, con che partiti pensate di poter dialogare in Europa su questo tema? Sicuramente con i partiti dell'area progressista, abbiamo diverse interlocuzioni in corso, vediamo quali saranno i risultati delle elezioni. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato presentato il progetto definitivo esecutivo della viabilità circostante l'ospedale civile Santa Maria degli Angeli di Pordenone, un'opera infrastrutturale da 3 milioni e mezzo, di cui 2,6 saranno coperti dal contributo regionale e 900 mila euro da un mutuo contratto dal comune di Pordenone. Nel progetto è prevista una nuova rotatoria tra Viale Rotto e Via Ungaresca e la riqualificazione di Via Montereale nel tratto tra la Ponte Ebbana e Via del Traverso. Si potrà svoltare a sinistra solo in Via dell'Aviere di fronte all'attuale ingresso dell'ospedale, in cui non si prevede l'eliminazione del semaforo e sul cui incrocio sarà istituito l'obbligo di svolta a destra per chi si immette su Via Montereale. Verrà realizzata una fermata dei bus in prossimità del parcheggio dell'ospedale riqualificato Via Rotto, che avrà una pista ciclabile larga 2,5 metri sul lato delle abitazioni. Impossibile farla sul lato ospedale, dove avrebbe intralciato il passaggio dei mezzi di emergenza. Dal lato dell'ospedale sarà invece realizzato un camminamento pedonale, verranno mantenuti 35 stalli. Altre modifiche miglioreranno sicurezza e scorrimento. Il Comune conta di partire con i lavori a inizio 2025 e completarli entro l'anno. Il Comitato Maddalena Vive ha organizzato questa mattina a Trieste un flash mob di protesta davanti al cancello d'ingresso dello Spazio Verde tra via Marenzi e via Molino a Vento nel rione della Maddalena. I manifestanti hanno chiesto l'apertura del giardinetto, che è tuttora chiuso nonostante fosse stato inaugurato a metà novembre alla presenza del sindaco di piazza. Per protesta hanno steso erba sintetica sul marciapiede insieme a piante fiorite, sdraio e un ombrellone. Hanno anche offerto da bere ai passanti e distribuito volantini. Gli attivisti, che si dicono allibiti e arrabbiati per quello che sta succedendo, hanno appeso al cancello un lucchetto di cartone con il numero 178, che indica i giorni che sono passati finora dall'inaugurazione. Il nostro rione ha bisogno di alberi e luoghi dove incontrarsi e costruire relazioni e comunità, spiega il comunicato. Oggi denunciamo la chiusura di questo spazio, ma quando sarà aperto organizzeremo un momento di festa per tutti. Sarà quella, concludono, la vera inaugurazione. E adesso andiamo a Vicenza, dove è in corso la Dunata Alpina. Domani ci sarà lo sfilamento a cui prendono parte naturalmente anche le Penne Nere del Friuli Venezia Giulia. Il servizio è di Giuseppe Buca della TGR Veneto. Da Udine a Vicenza è di nuovo adunata nazionale degli alpini, aperta in Piazza dei Signori sulle note della fanfara della Brigata Giulia. Grande attesa per la sfilata di domenica, le sezioni del Friuli Venezia Giulia tra le più numerose. Quest'anno siamo ospiti a Vicenza, ma ci sentiamo a casa in famiglia lo stesso, perché gli alpini sono tutta una famiglia. Io ho la fortuna di sentire l'alzabandiera suonato dalla fanfara spesso e volentieri, perché io sono ancora in servizio, però le adunate è sempre un'altra emozione. Com'è la vita in tenda? È una cosa un po' insolita, però alla fine è l'amicizia e la convivialità che è sempre qualcosa di unico. È il bello della Dunata? Il bello della Dunata, sicuramente. A rappresentare Udine, dove vive, anche il maggiore Charles Sexton, l'unico alpino americano, si definisce, per aver indossato il cappello con la penna nera in un programma di scambio tra eserciti statunitense e italiano. È qualche volta difficile essere in Italia, ma quando ci sono alpini qua è facile per me. Al Friuli c'è anche chi è arrivato in bicicletta. Siamo partiti da Venzone, su 3 giorni abbiamo fatto tappa a Pordenone, poi Preganziol, Bassano e stamattina siamo arrivati qua. Pedalare per sensibilizzare sulla prevenzione del diabete e sull'importanza dell'attività fisica, in centinaia alla corsa che attraversa la regione. Oggi con la seconda delle 3 tappe, diabete a ruota libera si sposta da Pordenone a Lignano con la scorta della polizia stradale, la partenza sotto il municipio di Pordenone attorno alle 10 questa mattina. un messaggio che vuole arrivare a tutti i diabetici del Friuli Venezia Giulia, che sono quasi 100.000, è appunto quello di non abbandonare lo sport, anzi un'attività fisica fatta bene può aiutare a tenere sotto controllo questa patologia. Lo chiediamo a Patrizia Livolsi, che è la presidente regionale della Società Italiana di Diabetologia. Allora, quanto è importante l'attività fisica sia per prevenire sia per tenere sotto controllo il diabete? L'attività fisica è importantissima, assieme a un'adeguata alimentazione, e aiuta a normalizzare i valori di glicemia quasi quanto una terapia farmacologica. È utile anche nella prevenzione del diabete, assolutamente, quindi soprattutto nelle persone che hanno familiarità per diabete, perché ce l'hanno il papà, il nonno. È importantissimo un'alimentazione che sia attenta, diciamo, negli zuccheri semplici, e un'attività fisica regolare che va praticata almeno 30-45 minuti tutti i giorni per avere un effetto metabolicamente attivo. Fare attività fisica sporadicamente è utile, ma non così come un'attività regolare continuativa. Allora muoviamoci, questo è il messaggio che arriva da Pordenone. Il Giro del Friuli Venezia Giulia domani riparte da Udine e terminerà a Trieste, mentre la tappa di ieri aveva partenza a Sappada e chiudeva a Tolmezzo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Centro Culturale e Spirituale Irridotto di Quaderno di Sedegliano oggi il conferimento del premio Rusticitas a Monsignor Nicola Borgo, nato a Rivis di Sedegliano nel 1933, fondatore del centro, con sede nella seconda abitazione in cui padre David Maria Turoldo visse con i genitori tra il 1922 e il 1929. Monsignor Borgo è considerato erede spirituale di Turoldo, del quale è interprete e studioso. Alle 17.30. I vincitori del concorso musicale di Palmanova sul palco per il concerto finale al Teatro Gustavo Modena alle 16, insieme alle premiazioni ufficiali, con la vittoria di due fratelli arpisti della Slovenia di 9 e 11 anni che si aggiudicano i premi UNESCO. Premiato a pieno punteggio il pianista veneto Leonardo Mabiglia di 14 anni, nipote di Enzo Mabiglia, concertista e docente del Conservatorio di Venezia. Ora le mostre. Alle 18 il CRAF, il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo, inaugura la mostra Chernobyl del fotografo Pierpaolo Mittica, testimonianza del più grande disastro tecnologico dell'era moderna. Per la prima volta in Italia il lavoro di Mittica, 76 foto scattate fra il 2014 e il 2019, alcune sono state pubblicate sulle maggiori testate internazionali. La personale di sculture di Marco Petean, studi d'artista, storie di innamoramenti, inquietudine e memoria, alla Casa della Confraternita al Castello di Udine alle 18. Mostra fotografica Lubitel Story, storie di luce e di ombra, promossa dall'Associazione Fotografica Centro Foto APS con il Comune di Trieste. Inaugurazione alle 18 nella Sala Fini del Magazzino 26. Alle 18 alla Galleria Rettori Tribio di Trieste apre la mostra Stagioni tra sogno e realtà della pittrice Anna Maria Frisone, esposti anche lavori artistici di Gian Piero Dell'Agata. E a Grado, mostra di pittura volti di donna organizzata dal Circolo Culturale Don Eugenio Brand e dalla Proloco Turiaco alle 18 presso l'atrio del ex Cinema Cristallo. E ora una conferenza. 24 maggio 1915, alba dell'inutile strage, il sacrificio di Riccardo Giusto e altre storie, in sala consigliare a Casarsa alle 18.30 con Carlo Strazzolini dell'Università di Udine. Ora il meteo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste 20 gradi e 5 decimi, a Gorizia 24, a Pordenone 23, a Udine 22 e mezzo, a Tolmezzo 19 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra e Tarvisio 17 e mezzo, sul Piancavallo 12 e mezzo, a Sappada 16, sul Monte Zoncolan 10 gradi, 8 e mezzo, sul Lussari, sulla costa Grado 21, Lignano 22 gradi. Le previsioni però. Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio venti a regime di brezza, sui monti al pomeriggio sarà possibile cielo variabile. E adesso lo sport con i quarti di finale dei play-off di A2, meno bella che in trasferta, ma comunque vincente la palla canestro Trieste che vola in semifinale. La stanchezza di Torino si è fatta sentire sul finale di una gara 3 dove i biancorossi sono scappati in doppia cifra di vantaggio praticamente subito, anche se si sono poi fatti riprendere dalla squadra di Ciani, ridotta all'osso nel quarto finale. I biancorossi sono andati di nuovo in confusione, hanno concesso tiri alla Reale Mutua che però li ha sbagliati alla fine, 74-71 il risultato per Trieste. Luzer di nuovo migliore dei giuliani, sentiamo le parole del play. Sì, sicuramente è brutto da dire, ma i playoff ti aiutano ad essere più concentrato, più carico. La cosa che mi è piaciuta in assoluto di più, come ho detto prima, in queste tre partite è stata la solidità in tutti i momenti. E magari durante l'anno determinate partite facevamo fatica a star sul pezzo, adesso vuoi perché sono i playoff, vuoi perché stiamo tutti bene, siamo al completo, siamo stati veramente solidi in tutti i momenti, in tutte le difficoltà che ci sono state in queste tre partite. Trascina la serie a gara 4 Cividale, sconfitto nelle due prime partite in casa Cantù, al Palagesteco, una partita equilibrata in cui gli ospiti hanno dimostrato più talento ma si sono persi nel momento più importante, quindi è finita 73-66 per Cividale, e che prolunga la serie a gara 4 domenica alle 18 sempre a Cividale. Stasera Udine può avanzare in semifinale, palla 2 alle 20:30 a Cremona per la terza partita della serie, ma sentiamo intanto cosa ha detto ieri il coach della Aquile Cividalesi, Pillastrini. Un momento davvero bello, io dico solo che questo posto sta dando dei segnali incredibili, perché reagire con questa positività, e il pubblico ha risposto in maniera incredibile e credo che anche la squadra abbia risposto in maniera incredibile. Non siamo mai caduti nell'errore del vittimismo, che poteva essere una tentazione forte, e abbiamo risposto sul campo con un agonismo pazzesco. E questa sera per il calcio gioca la Triestina, secondo turno della fase che porterà a giugno alle finali promozioni, contro la Giana Erminio alle 20:30. Adesso parliamo di una festa della subacquea inclusiva aperta a tutti oggi a Trieste, la piscina di San Giovanni, dalle 14:30. Abbiamo chiesto al responsabile di HSA Trieste, che organizza l'evento, qual è l'importanza di iniziative del genere per promuovere lo sport per tutti. Ci troveremo in una condizione ottimale, benché l'acqua non sia il nostro ambiente più naturale possibile, però ci dà la possibilità di agire senza pesi, diciamo, no? E quindi siamo praticamente in assenza di peso, e tutto ciò non fa altro che semplificare i problemi che potrebbero avere persone con abilità diverse o disabili, e di conseguenza è un mondo che per noi subacquei è eccezionale e ci presta maggiormente a dare una mano a chi vorrebbe fare qualcosa che non tutti, tra l'altro i normodotati, sono capaci di fare, ed è agevolato sì dall'assistenza che noi siamo in condizione di dare come istruttori presenti in 50 paesi al mondo per quanto riguarda l'HSA, ma soprattutto veniamo aiutati dalla mancanza di peso in acqua, e quindi questo facilita l'apprendimento e facilita i contatti tra le persone, e si prova una gioia immensa da entrambe le parti quando vediamo un disabile che risale da un'immersione ludica più che altro con le lacrime agli occhi, e le fa venire anche a noi. È una soddisfazione che fa sì che questo mondo possa crescere, perché è un mondo dove evidentemente chi ha una capacità in più di agire in un sistema che conosce bene perché lo è la sua professione o la sua passione, riesce a trasmetterlo a un'altra persona che ha qualche difficoltà, e quindi entrambi traggono da questa esperienza una soddisfazione eccezionale. Ci sarà anche Sergio Cecchet, che è non vedente. Non è facile orientarsi in questo modo negli abissi. È facile nel caso in cui si abbia a fianco una persona molto preparata, tant'è vero che quando ci sono gli esami per istruttori per diversamente abili e nella fattispecie i non vedenti, non si può lasciare da solo neanche per un secondo, ci deve essere sempre assolutamente un contatto fisico che avviene con determinate procedure. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora le rubriche della TGR. Su queste frequenze domani appuntamento con la rubrica Vita nei Campi. Sentiamo il sommario della puntata. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non dalla domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura l'ennesima stagione difficile per l'apicoltura. A seguire la storia di Angelo Floramo che ci porta nel Chiot, l'odoroso rifugio del maiale, uno dei fulcri della casa contadina. Arriva dall'Armenia, una pianta generosa ma di difficile allevamento. Stiamo parlando dell'albicocco. E ancora nella rubrica dei sommelier una piccola guida per orientarsi tra le famiglie della birra, per lo spazio che dedichiamo alla conservazione dei cibi, i fiori di Sambuco, ottimi per bevande e marmellate. Fioritura particolarissima e doti di resistenza estive sono le caratteristiche della scaevola. In conclusione, l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Sempre domani sulla terza rete Rai televisiva diffusione nazionale andrà in onda Est-Ovest, curata dalla nostra redazione. Un'anticipazione. Putin ha iniziato il quinto mandato presidenziale. Le diplomazie si muovono, ma in Ucraina si continua a morire. Le notizie false diffuse sulla rete anche da siti russi stanno condizionando il confronto politico in Romania e in Moldavia. I dervisci di Prizren, una città del Kosovo in cui si incontrano la tradizione islamica e le pratiche del futuro. La Serbia, ad un anno dalle stragi di massa nella scuola Ribnikar e a Mladenovac, cerca ancora risposte per contenere la violenza. L'immigrazione albanese nel Salento, un incontro di culture per conoscersi e crescere insieme. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.05 su Rai 3. Alla parte tecnica Federico Comar e Mauro Ciccarelli, in segreteria ha collaborato Daniela Sossi, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.